Giovedì 7 luglio 15.02, Tracce di Cinema sta per iniziare. Benvenuti a tutti gli ascoltatori e benvenute a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sugli 87.9, ma potete ascoltarci anche in streaming attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info. Io volevo iniziare la puntata, Fede, con un piccolo ricordo di un grande regista, Abbas Kiarostami, che ci ha lasciato qualche giorno fa e ha lasciato un gran vuoto nel cinema, ma non solo nel cinema, perché era una persona stupenda. Io l'ho conosciuto tanti anni fa, a una cena durante un festival. Mi sono seduta, vicino a me si è seduto un signore con gli occhiali, io non avevo nessuna percezione né idea di chi fosse, e mi è stato accanto tutta la cena e mi ha, ha chiacchierato solo con me per tutta la cena intera. Io ero ragazzina, non avevo appunto idea di chi fosse, quindi con grande leggerezza, insomma, gli raccontavo. Lui mi ha fatto un sacco di domande su chi ero, che facevo, eccetera. Era molto curioso e non ha, durante questa cena non ha dato retta praticamente a nessuno, e abbiamo parlato fitti come due vecchi amici. Poi, quando mi sono alzata, una persona che era con me, che mi aveva appunto accompagnato a questa bella serata, mi ha detto: ma hai capito chi era? E io ho detto: no, ma chi, non lo so chi era. E questa persona mi ha detto: era Abbas Kiarostami, è un famoso regista. E io sapevo chi fosse, però non avevo idea, non riuscivo a unire il suo viso alle sue opere. Quindi mi sono emozionata molto e ho pensato dentro di me, cosa che mi è capitato di ripensare pochissime volte, quanto le persone importanti, intelligenti e curiose avessero poco a che fare con ciò che è insomma importante quanto loro, e quanto invece siano più interessati a quello che è più comune e spesso anche poco, ecco, poco significativo, come potevo essere e come sono ancora adesso io allora, ma insomma ero proprio una ragazzetta. E questa persona così importante era così curiosa invece di un mondo che evidentemente non conosceva, che non ha chiacchierato con nessuno di quelle persone che erano a questa tavolata più o meno importanti, ma era soltanto incuriosito da qualcuno che era lì ed era più che altro insignificante. E questo mi emoziona, perché soltanto le persone che hanno veramente un valore, e non è un valore di importanza intellettuale o di potere economico, ma hanno un valore inteso come valore interiore, poi si ricordano con grande affetto e stima, come io ricordo lui. Ci mancherà, è stato un grande regista. Inizia Tracce di Cinema oggi, gran film, Fede, mi piace un sacco, super colonna sonora 80s. Divertente il film e anche la colonna sonora, un pop rock degli 80. Eh sì, Pride 2014, regia di Matthew Warchus, racconta la storia di un'inedita alleanza nell'Inghilterra del Thatcherismo. Una storia di 30 anni fa che, grazie a Dio, è venuta fuori un po' troppo tardi. È venuta fuori anche se un po' troppo tardi, se ne poteva parlare anche prima, ma insomma, meglio tardi che mai. Iniziamo con la musica e poi parliamo un po' del film e di tutto, c'è un sacco di cose da dire. Relax, don't duet when you wanna go duet. Relax, don't duet when you wanna come. E questa era Relax dei Frankie Goes to Hollywood, mai rilassarsi però troppo, però con questa canzone viene bene. Gennaio 1984 è stato uno dei singoli più venduti in Inghilterra, 5 settimane, ha toccato anche la numero uno in Italia, Germania, Francia e Svizzera. Non partì bene però, per niente, però merito di tanto marketing e di un video straordinario, ha fatto scandalo e ha raggiunto un successo indiscutibile. Era il 1983 quando i Frankie Goes to Hollywood vennero messi sotto contratto da Trevor Horn per la casa discografica Zhang Tum Tum, che era rimasto incantato dopo averli sentiti suonare in uno show televisivo in cui suonarono una versione ancora grezza di Relax. Poi lui li portò in sala di incisione e gli fece in sala di registrazione, li fece riregistrare il pezzo con una sonorità un po' più alla moda, un po' più accattivante secondo lui, e forse aveva ragione perché ci ha un po' azzeccato visto il grande successo che ha avuto. Questo successo è nato grazie soprattutto a due cose: la campagna di marketing che è stata fatta e al video, e mo' vi racconto perché. Allora, la campagna di marketing è stata tenuta, insomma, è stata controllata dal giornalista Paul Morley, che era un simpaticone, e fu molto intelligente perché iniziò a comprare degli spazi su delle riviste musicali inglesi per sponsorizzare appunto la band, ma attraverso delle pubblicità assai spinte. Tipo una diceva, ho trovato che diceva, tutti i bei ragazzi, c'erano tutti i Frankie Goes to Hollywood vestiti da marinai, no? E diceva il tagline sotto la pubblicità, aspetta che me la so persa, tutti i bei ragazzi amano gli uomini di mare. E poi scriveva, i Frankie Goes to Hollywood stanno arrivando e faranno leccare ai Duran Duran la merda dalle loro scarpe. Questa era una. E poi ne ho trovata un'altra, mi sono andata a cercare tutte quante le cose. Teoria di felicità, una storia di Liverpool dal 1963 al 1983, una guida ai bar di Amsterdam. E queste furono due delle pubblicità che lui utilizzò per fare insomma notare questo mitico gruppo. Poi il 5 gennaio venne presentato questo brano alla BBC, vi potete immaginare che cosa è successo, è stato subito censurato, però nonostante la censura diventa leggenda e la band viene sommersa di domande dai fans sul significato del brano. E all'inizio loro non sono stati molto timidi e dicevano, rispondevano che volevano dire che bisognava fare ognuno quello che aveva voglia di fare in realtà, ma insomma le interpretazioni erano ben diverse, insomma, quelle che venivano suggerite dalla canzone. E poi uscì il vero significato di questo brano quando uscì l'album. Nel libretto venne scritto appunto dai Frankie Goes to Hollywood: quando la gente ci chiedeva di Relax, noi dicevamo che era un brano sull'essere motivati, ma in realtà il testo incitava solo a scopare. Don't stop, no show. My body needs action. Ain't got you get the notion. You can't stop the move, 'cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Shame, shame, shame. Shirley Ann Coe. Questa però ce ne parli tu, Ottavia. Sì, ma prima di parlare del brano, che ci sono proprio pochissime informazioni, volevo un attimo fare un quadro del film, cioè certo, spiegare un po' dove ci troviamo, di che cosa stiamo parlando. Allora, la colonna sonora, come avete ben sentito da questi due brani d'inizio, è una colonna sonora anni 80. Ci sono brani The Bronx P-Beat, Frankie Goes to Hollywood, li abbiamo appena sentiti, Soft Cell, Culture Club, Joy Division, Queen, tantissimi, insomma una colonna sonora che è molto speciale perché racchiude in sé, e intanto è molto significativa per il film, secondo me è proprio perfetta per il film, no? Sì. E poi perché racchiude in sé proprio una pluralità di voci tipica di un periodo sociale storico molto, molto importante, in cui affioravano nuove tendenze che si univano tutte insieme e lavoravano un po' anche con la musica contro uno stato di intolleranza e di violenza che era fortissimo all'epoca ed era tenuto sotto controllo da Margaret Thatcher, la quale lavorava e lottava contro, per esempio, contro coloro la cui sessualità metteva, secondo lei, in discussione l'idea di famiglia, eccetera, oppure anche contro il diritto al lavoro, perché insomma tutto quanto nasce dal grande sciopero dei minatori, che stavano 20.000 minatori, pensate, nel Galles, perdevano il lavoro a causa della politica antilavorista di questa donna. E quindi insomma questo film ci ricorda le lotte politiche, sessuali e sociali contro i poteri, un potere reazionario veramente molto forte, poi appoggiato dalla polizia, appoggiato dai media, dai giornali, da tutti, da una società molto conservatrice allora, e da questa lotta un po' molto poco comune, perché insomma il movimento gay si unì a quello dei minatori e si sostennero a vicenda, e poi tutto sfociò nel meraviglioso Pride del 1985. Beh, insomma, in questo clima avvenivano grandi cambiamenti, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista anche musicale. E questa musica, secondo me, Fede, poi correggimi anche tu, insomma, se dimmi che cosa ne pensi. Questa musica, che molto spesso, a parte vabbè i Queen che hanno uno spessore eccetera, però altri rappresentanti di questo genere musicale sono considerati un po' superficiali con le loro sonorità e con la loro ricerca anche di testi eccetera, mentre invece secondo me erano così spiritosi che facevano una battaglia forse non percepita intellettualmente, ma era una battaglia talmente ironica che spesso sono poi le battaglie quelle che hanno più seguito certe volte, no? Mm-hmm. Almeno in questo senso, in quel momento lo ebbero. Sì. Che ne pensi? Sì. E invece di questo brano, Shame, Shame, Shame, che io avevo rintitolato Shame on You, è un brano di Shirley and the Company, e è stato il primo singolo di questo gruppo musicale, che poi ha pubblicato solo un album, e sono stati in attività dal 74 al 78, prodotto e scritto da Sylvia Robinson, ha avuto un successo mondiale e ha avuto la prima posizione nelle classifiche statunitensi per un sacco di settimane. Poi, dopo il successo di questa canzone, il gruppo non ebbe più lo stesso seguito e poi si sono sciolti. The Communards con For a Friend, la voce era quella di Jimmy Somerville, un progetto successivo ai Bronski Beat. Prima Bronski Beat e poi Communards. Quindi successivo ai Bronski Beat. Sì. E un personaggio importante per anche per il mondo gay in tutto il decennio 80, ma non solo, e anche a livello proprio di icona, Jimmy sì. Somerville, oltre che una voce splendida. Sì, sì, è proprio quello che stavo dicendo prima, è proprio esemplificato da questo brano, perché mentre c'era una grande protesta sociale, la scena musicale si frantumava in tanti mille pezzi, e però faceva da ponte un po' a ponte di unione alle diversità, e lo dico perché proprio questo brano bellissimo dei Communards è dedicato a un personaggio fondamentale per questo film e per la storia del movimento gay dai tempi fino a oggi, ed è dedicato a Mark Ashton, che era grande amico di Jimmy Somerville e di Richard Coles, che con cui Jimmy Somerville fondò i Communards, e questa è la traccia che chiude la colonna sonora del film. Noi l'abbiamo messa come mi pare terza, giusto Fede? Sì, è la terza che abbiamo suonato. Sì, è la terza, però è talmente bella che io non volevo rischiare di perdermela, che non ci fosse tempo per suonarla. Ci tenevo molto. E fa parte è contenuta nell'album Red del 1987 ed è appunto dei Communards. Yeah. Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record. Il look era un po' piratesco quello. Sì, vabbè, ma lui è stupendo. Dead or Alive. Questa è una delle nella classifica delle canzoni più gay della storia della musica, ma anche quella presentata nei 1001 pezzi da ascoltare obbligatoriamente prima di morire. E questo brano ci porta sempre dalla colonna sonora del film Pride all'ospite di questa settimana, che è Paolo Mereghetti. Ben ritrovato, Paolo. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Tra l'altro, pochi giorni fa si è svolta l'edizione del 2016 della rassegna che tieni a Castiglioncello. Ti chiedo subito com'è andata. Ma devo dire piuttosto bene. Come dire, Sorrentino, che era l'ospite dell'ultimo giorno, ha riempito tutti gli spazi disponibili e ha avuto così tanto successo soprattutto per presentare un film che tutti conoscevano, che poi era La Grande Bellezza, però con la mezz'ora in più. Sì. Quindi mi sembra che sia andata molto bene. Sì. Tra l'altro, io non ho avuto modo di vedere l'edizione integrale con questa aggiunta di mezz'ora. Cosa ne pensi, visto che ci siamo? Secondo me il film ne guadagna molto, devo dire, nel senso che ci sono, il personaggio si perde maggiormente, fa spiegare meglio la perdita di visione, di orizzonti, di bussole all'interno di questa Roma un po' strana, come dire, dove le notti sono quasi irrinunciabili, molte scene si svolgono di notte, ma dove solo alla luce della mattina il personaggio torna a fare i conti con se stesso. Secondo me ci guadagna, ore ci guadagna. Allora, Paolo, con te oggi per parlare di questo Pride che in Madrepatria, ma non solo, ha riscosso un notevole successo, perché insomma ci sono diversi elementi preparati appositamente per il successo, insomma, non la commedia sociale britannica non era nuova a queste operazioni e si sta perfezionando sempre di più in tal senso, giusto? Curioso però è che, come dire, racconta una storia vera, verissima, esatto, in fondo, esatto. Eppure a dimostrare che delle volte, come dire, la realtà è miglior sceneggiatrice di certi sceneggiatori. Ma al di là di questi possibili spunti polemici, diciamo che il film, Matthew Warchus, che ha diretto il film, è stato capace di fondere il quadro politico generale, l'84 con la Thatcher e la lotta contro i minatori, e di far uscire questi personaggi, di questi militanti gay e poi anche lesbiche che si uniscono, che decidono di andare a portare la loro solidarietà a quelli che dovrebbero, a quelli che potrebbero essere all'opposto della loro sensibilità, cioè i rudi minatori del Galles. Eppure, grazie al ruolo delle mogli di questi minatori, si forma una, come dire, un'alleanza che stupirà tutti, ma che riuscirà a far crescere, almeno dal punto di vista, diciamo, umano, perché poi la battaglia politica fu persa dai minatori. Ecco, ogni tanto ti perdiamo, sì. Paolo, sì. Ah, mi dispiace, vabbè. E una regia di provenienza teatrale, se non sbaglio, per la sceneggiatura di un attore. È un'operazione curiosa questa. Sì, curiosa forse per il nostro cinema italiano. Sì, esatto. Un po' asfittico, un po' ripetitivo. In Inghilterra questa cosa non è assolutamente... strana. Il passaggio dal teatro al cinema e dal cinema al teatro è quasi regola costante, non soltanto perché a Londra il teatro, per l'Inghilterra il teatro è, come dire, un momento. Ti abbiamo riperso, Paolo. Massa, ecco. Proprio popolarità di massa. Mi dispiace che se ne vada la linea, ma e quindi, come dire, questo passaggio dal teatro al cinema, dal cinema al teatro è molto è molto popolare. Sì, sì. E però la cosa curiosa e giusta è che il passaggio vuol dire anche passaggio di ottica, di messa in scena. Sì. Non fanno film come dire, teatrali o messe in scena teatrali cinematografiche, no, usano i giusti elementi riconoscibili per ogni mezzo espressivo. Ed uno degli elementi in tal senso, secondo me, è la fusione mirabile tra attori professionisti e gente comune, ma dai volti e dall'espressività prettamente cinematografica. Direi proprio di sì. Ci sono alcuni attori che sono, diciamo, che devono rendere forse i personaggi più complicati, sì. Le donne, per esempio, che sono, dire, possono essere riconoscibili, c'è Imelda Staunton dal regista, proprio perché rappresentavano immediatamente questa cosa che in fondo era la regola anche del nostro neorealismo, perché non è che gli attori presi dalla strada poi non recitassero. Recitavano anche loro, ma sapevano portare un più di genuinità che forse i volti conosciuti e un po' abusati dei professionisti non riuscivano più a dare. E poi, Paolo, a me ha fatto impressione, vedendo il film, che ci sono tantissimi ruoli. Io ho letto su internet addirittura oltre 75, ognuno dei quali è, anche in una breve apparizione, in una frase eccetera, è comunque molto ben disegnato e anche coccolato in qualche modo dal regista, anche se sono dei piccoli ruoli, dei piccoli cammei, delle piccole percezioni di personaggi che arrivano sulla scena e poi scompaiono. Beh, insomma, c'è una grande cura da parte di questo regista e dello sceneggiatore che ha scritto questa bella sceneggiatura. Certo, ma perché, come dire, questa cosa poi alla fine finisce per portare interesse e forza al film stesso. Non c'è soltanto una storia, un gruppo militante gay va dai minatori, ma c'è anche la voglia di rappresentare cioè in qualche modo le piccole o grandi storie di ognuno di loro attraverso una, appunto, come dicevi tu, con una piccola reazione. È proprio questo, come dire, un'altra delle cose che in Italia dobbiamo imparare. Forse una volta che abbiamo trovato una bella storia, non è che dobbiamo limitarci a mettere in scena la storia, abbiamo bisogno di far vivere quei personaggi come se fossero davvero tutti, come se fossero davvero, come dire, personaggi a cui vale la pena di credere. Sì, ma forse anche questa sua sensibilità, anche se lui non è un regista così affermato, perché leggevo che ha fatto soltanto un altro film che non ha avuto per niente successo, però questa sua sensibilità nel dirigere e nel tratteggiare così bene portare in scena così bene i suoi attori viene anche perché ha una storia di regista teatrale. Forse nel teatro questa sensibilità è più vitale rispetto a quella che c'è nel cinema, no? Probabilmente sì, però appunto vorrei ribadirci, non vorrei essere, come dire, monotono, ma è poi è la forza del sì. Grande cinema rispetto al piccolo cinema, sì. Nel senso che se tu riesci a far sì che tutti i personaggi, perché l'hai imparato a teatro, perché l'hai imparato al cinema, riescono ad avere una loro identità anche per un fotogramma, beh, a questo punto lo spettatore rimane lì e non se li dimentica più. Sì. Se invece sono personaggi che devono soltanto dire la loro battuta, magari in maniera un po' frettolosa, allora ogni tanto perdiamo la comunicazione. Mi dispiace, ora ci sei. Paolo, un altro degli elementi è questo tentato e riuscito, poi anche perché si basa su una storia effettivamente avvenuta, punto di unione tra movimento gay lesbo e quello dei minatori, due realtà sociali escluse e profondamente sotto attacco nel decennio 80. Se pensiamo alla battaglia storica poi persa dai minatori in quel decennio, si tratta di decine e decine di miniere chiuse e tanti posti di lavoro saltati, e per quanto riguarda il movimento gay, il flagello dell'AIDS che mieteva vittime era una piaga, è stata la grossa piaga del decennio 80 rispetto al movimento, ma non solo. Certo, non dimentichiamo poi che in Inghilterra, come dire, i minatori né i militanti gay e lesbiche, nel senso che c'era anche, come dire, era anche un trionfo dopo anni un po' così ballonzolanti di politiche sociali. C'era anche il trionfo proprio di una chiusura rivendicata in qualche modo con orgoglio contro le classi lavoratrici e contro, tra virgolette, i diversi, e più per questi, per i gay e per le lesbiche. E però il film riesce, non a caso un film fatto 30 anni dopo quei fatti, perché il film, i fatti sono dell'84, il film è stato fatto nel 2014, quando c'era un po' più di diversa lucidità e coscienza di quelle cose. Il film rivendica proprio sociali sotto attacco e la solidarietà che, nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nasce per tra di loro. E quello che invece il movimento GLBT contesta a film, ad esempio penso a Stonewall, ma anche a questo stesso film, che è siano operazioni un po' edulcorate, e nel senso, per esempio, ne parlavamo proprio con la Porpora Marcasciano nella puntata dedicata a Stonewall. Manca l'elemento dei brutti, sporchi e cattivi per quanto riguarda il movimento GLBT, che specialmente a Stonewall si caratterizzò in quel senso. Poi indubbiamente, però vorrei ogni tanto ricordare che il cinema non è una ricostruzione storica. Qualche volta anche il cinema, certo, ha delle sue regole che vanno in qualche modo rispettate. L'idea era quella di far vedere, fondamentalmente mi sembra, la solidarietà tra due gruppi sotto attacco, e questa cosa riesce bene, sì, attraverso, sì, il tramite femminile dell'apertura mentale delle donne dei minatori, che sono molto più aperte, sì, dei minatori stessi. Poi che ci siano stati, che forse gli attori fossero più carini, più belli o più fotogenici dei protagonisti reali, questo secondo me è un compito che va affidato alla cronaca e alla storia, non al cinema. Certo. Se il cinema mistifica le cose, questo è un conto, ma se non le mistifica e cerca, come dire, in qualche modo di adattarle alle proprie esigenze, questo un po' va tenuto presente. Certo. Senza voler dire che il cinema non è la verità in terra, ricordiamocene. Certo. Senti Paolo, c'è in questa stagione qualche titolo che ti ha impressionato per le musiche, che hai amato proprio per le sonorità che hai espresso? Faccio un po' di fatica perché sono, tra virgolette, un po' sordo rispetto alla musica. Arrivo sempre a sentirla alla seconda o terza visione. Va bene, allora su questo non ti preoccupare, anche perché Walk, stavo pensando a questo film iraniano che è appena uscito, di vampiri. Ah, sì. Girl Walk Alone in the Night, dove mi sembra che ci sia un uso della musica abbastanza curioso e interessante. Però confesso, sulle musiche sono un po' impreparato. Paolo, è stato un piacere, speriamo di sentirci presto anche magari a Visionari. Un abbraccio e alla prossima. Alla prossima, arrivederci a tutti. Grazie. Ciao Paolo. Grazie. Per l'appunto Bronski Beat, come prima annunciato rispetto alla voce di Jimmy Somerville, questa era Why, anche se non so bene il titolo, Tell Me Why o Why, perché a volte è riportato in maniera differente. Io so comunque. Why. Ok. Io so Why, del 1984, è un proprio un canto che in cui si delinea la posizione nei confronti dei pregiudizi contro i gay. È proprio un una canzone manifesto. Sì, un canto dell'orgoglio, bellissima secondo me, e che proprio si sente potente, e proprio fa parte all'interno del film di un momento in cui proprio la lotta politica e sessuale e sociale contro il potere reazionario e conservatore si fonde, e il movimento gay e lesbico è molto vicino a quello dei minatori, e quindi decidono di promuovere una campagna di fundraising proprio per loro, che in quel periodo scioperavano, e poi tutto quanto si conclude nel 1985 con il Pride, che viene proprio aperto dagli striscioni dei minatori inglesi, e dopo di questo si riuscì a accettare l'anno successivo all'interno del programma laburista la difesa dei diritti omosessuali, quindi insomma fu una conquista importante. Soft Cell di Mark Almond, Tainted Love. Questa è una di quelle canzoni che sta alla base della mia formazione musicale, ma ha segnato proprio un decennio. E poi solo relativamente di recente ho scoperto che l'originale è di Ed Cobb, ma questa versione probabilmente ne sono state fatte tante, ma questa è sublime veramente. Sì, pure secondo me è la più bella, è del 1964 la prima versione, registrata dalla cantante Gloria Jones e distribuita nel 65 e poi quella che conosciamo del 81, fa parte dell'album dell'81 dei Soft Cell, Non Stop Erotic Cabaret, è storia proprio che però Mark Almond si rifiutò di eseguirla in concerto per parecchi anni, perché si vede che l'avevano un po' ossessionato. No, è proprio diventato un brano manifesto del gruppo. Invece, brevemente, ci sono tantissime cose da dire su questo film. Io sono un po' dispiaciuta perché non so perché mi sono dilungata in cose che magari erano meno importanti. C'era la storia di Mark Ashton, c'era la storia del movimento, bisognava parlare dei minatori, degli scioperi, del terribile governo thatcheriano. C'erano tante cose di cui parlare. È pure vero che noi lanciamo degli input, poi la chi ci ascolta magari si vede il film, sì, e le scuole assolutamente può approfondire senza di noi, sì anzi sicuramente lo farà anche meglio. Beh, comunque insomma due cose proprio velocissime, i luoghi di questo film è stato tutto girato in luoghi che sono appartenuti proprio al non a un immaginario ma alla realtà, quindi il Galles per la storia dei minatori, la base degli attivisti di Pride, il Gays the World, una piccola libreria nel quartiere di Bloomsbury a Londra che esiste ancora, e poi il mitico Camden Heights, la mitica Electric Ballroom di Camden High Street, che è ancora esiste tutt'oggi, dove venne fatto il concerto di questa storia, nel senso che il Sun, appoggiando la Thatcher eccetera, fece una campagna di infame contro il movimento e fece uscire un articolo che aveva proprio come titolo di copertina Pits and Perverts, puzzi e pervertiti, e di quell'epiteto ne è stata fatta la maglietta di pubblicità del film che io ho, sì, e Jimmy Somerville, che era una persona spiritosa e molto intelligente, che cosa fece? Mark Ashton la utilizzò per organizzare il concerto, proprio che venne proprio chiamato con così Pits and Perverts, e venne suonato in questo spazio a Camden, e i leader, il gruppo insomma più importante del concerto furono i Bronski Beat. Gli Smiths con What Difference Does It Make. Eh beh, è questi che gli devi dire agli Smiths, cioè una band che non ha mai smesso di essere attuale, non proprio sarà una fonte, è stata e sarà una fonte di ispirazione, credo, per centinaia di gruppi per le prossime centinaia generazioni a venire, perché insomma Stephen Morris e John Mara hanno fatto un po' la storia, ecco, della musica, riguardo alle sonorità, ai testi, un po' tutto. Per questo brano dico proprio due cose al volo, perché siamo quasi in chiusura. Morris disse: quasi tutti i dischi sono stati assolutamente perfetti per me, li ho amati tutti, ma non posso negare che ce ne sono alcuni che non sono invecchiati così graziosamente, come ad esempio What Difference Does It Make. Non mi piace per la produzione, ma questo è l'unico rammarico. Riguardo ai testi, dice, dichiarò, per spiegarne il significato: le persone sono così nevrotiche su loro stesse, la loro vita, i loro capelli, i denti, le loro amicizie, what difference does it make? Che differenza c'è davvero tutto questo? E poi, a proposito, si è anche schierato con il movimento gay GLBT, ha dichiarato: vorrei liberare il mondo dagli stereotipi sessuali, il terzo sesso è stato provato ma ha fallito, io voglio qualcosa di diverso. E ancora, rifiutando l'etichetta gay, ha detto: la gente è solo sessuale, il prefisso è irrilevante. E su queste saggissime parole di Morrissey, Fede, diamo i riferimenti per sottoscrivere, l'indirizzo di posta, l'indirizzo, il conto corrente postale è il 6180 4001, da intestare anche a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185 Roma. Ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre dalle 15 alle 16. L'indirizzo di posta elettronica è traccedicinema@ondarossa.info. Che altro, Tavia? Un saluto in particolare, non l'ho fatto all'inizio della puntata, ma sono sempre nel mio cuore quando sono di fronte a questi microfoni in questa stanzetta. Va un saluto particolare a tutti coloro e a tutte coloro, i compagni e le compagne che sono privati della loro libertà personale, non solo perché sono in carcere, ma perché sono in ospedale, perché sono privi di poter agire come meglio vogliono. E un saluto e un abbraccio particolare va a tutti loro. Allora, facciamo così: visto che Attica Blues ancora non è al completo ma è a metà, noi partiamo con King, Love and Pride, anche questa dalla colonna sonora del film Pride, e se c'è ancora tempo proseguiamo dopo. Per ora ci salutiamo così.